Bonjour, bidon, de Sima Puntata. E buongiorno e benvenuti alla decima puntata di Bonjour Bidon. Decima puntata di Bonjour Ciao, Bidon. Buongiorno. Da quella Parigi che assomiglia molto a Cagliari, vi parliamo in diretta. E a Bari anche assomiglia a Parigi. Dico. Assomiglia a tutto. Sono le 11:11, siamo in diretta e io sono Angelo Trofa. E io sono Leonardo Piccione. E siamo di nuovo qui dopo il giorno di riposo. Sì. L'hai patito? Io abbastanza, stamattina ho avuto un po' di problemini nel svegliarmi. Infatti sono arrivato anche tardi, però sì. Dai, siamo qua. Ci hai preso 25 minuti di ritardo oggi, caro Leonardo Piccione. Concedimelo. Sei tra quelli che patisce il giorno di riposo. Sa di sì, rientro in quella Ne categoria. Parleranno molto oggi durante la diretta, perché è uno dei temi preferiti. Chi patisce il giorno di riposo? Chi patisce il giorno di riposo? È l'argomento principe di oggi, come ce ne sono tantissimi altri, perché noi abbiamo ancora da parlare della tappa di domenica, una tappa dove, dicevi bene, facevamo prima a dire quello che non è, che successo. Non è successo. Ma comunque, per parlare di tutto questo, io direi che è il momento di iniziare. E ale! Buongiorno! Ciao Angelo, ti vedo rilassato, sì. Hai fatto ieri? Dove sei stato? Io ho festeggiato, sono andato in un famoso ristorante di Cagliari dove si mangia tonno e me ne sono visto bene. Ma hai festeggiato cosa? Il giorno di riposo? No, ieri sono fatti miei, però comunque ho festeggiato il mio anniversario di matrimonio. Ah, che bello, sì, facciamo gli auguri, anche se con un giorno di ritardo. Grazie mille. Comunque però parliamo invece di chi di me, non vuoi sapere cosa ho fatto cosa ieri. Fatto? Sono andato al mare ieri, sono andato verso Quartu Sant'Elena a Mari Pintau, sono stato benissimo. Assolutamente, chi è di Cagliari conosce bene il luogo dove si è andato e chi non è di Cagliari suggerisco di conoscere bene Cagliari, di venire per andare a Mari Pintau e i tantissimi luoghi meravigliosi che sono vicino a Cagliari. Questo minuto è offerto dalla regione Sardegna. si sta bene, nonostante il caldo, sì. Ma nella mente e negli occhi resta quello che era successo domenica. Assolutamente, come si diceva l'altro giorno, fiumi di parole cantavano i Jalis, fiumi di tweet, fiumi di parole ieri sulla tappa di domenica. Fiumi di fatti anche, perché alla fine sono successe molte cose. Questa tappa prometteva tanto e ci ha dato tanto dal punto di vista dello spettacolo, della discussione, della dietrologia, di un sacco di cose. Assolutamente, interpretazione. Diciamo, la tappa regina non è stata vara, ma per parlare della tappa regina scopriamo se il nostro super ospite, anzi il nostro super terzo partecipante, ha patito il giorno di riposo. Quindi, ovvero, diamo la parola al nostro Filippo Cauz da Milano. Ti è piaciuto il nuovo stacchetto, Filippo? Ah, è cambiato? No, è sempre... Esatto, non lo sento, io... Spero sempre ci sia lo stacchetto, ma non ho modo di sentirlo, ma sì, sarà sì. Sicuramente bellissimo. È bellissimo, è molto emozionante, lo usano già molti come suoneria per il cellulare. Maledetto giorno di riposo, d'altronde. Tu l'hai patito? Come ti senti oggi? Ma io, nel senso, a differenza vostra e di tanti altri, per me il giorno di riposo è sempre una tragedia, perché è il giorno in cui devo lavorare, perché devo fare tutto il lavoro che non faccio nel resto della settimana e delle tre settimane. Qui lo concentro tutto nei due giorni di riposo e sono i due giorni peggiori dell'intero Tour de France. Senti Filippo, insieme vorremmo ovviamente ripercorrere la tappa di domenica, facciamolo in questo modo. Parliamo dei vincitori e vinti, visto che era anche la tappa conclusiva della prima settimana, ci sta un pochino a capire chi da questa tappa esce con qualcosa nel bagagliaio e chi invece ha mani asciutte. E chi con le ossa rotte, in tutti i sensi le ossa rotte potremmo chi dire. Chi sono secondo te i vincitori della tappa di domenica? Beh, allora, il vincitore assoluto purtroppo non ha avuto modo di trionfare in questa tappa, ma sarei stato io, perché volevo pronosticare Uran, ma non mi avete fatto fare il pronostico, è chiaro che ormai i poteri forti si sono espressi in questa trasmissione e ne prendo atto. Ma se l'avessi detto non avrebbe vinto, questo è il punto. Questo è molto probabile, probabilmente anche solo il photo finish sarebbe cambiato. Esatto. Dopodiché il vincitore è chiaramente Rigoberto Urán, ma a me piace vedere come vincitori Urán e Barguil allo stesso tempo, nel senso che una tappa del genere con 722.000 cadute, la pioggia e tutto quanto che si conclude al photo finish è quasi una beffa, per di più un photo finish beffa, perché mi sembra che a Barguil fosse stata addirittura attribuita la vittoria all'inizio, comunque così pareva, per cui vediamo i vincitori entrambi. Barguil tra l'altro si è messo una gran bella maglia pois che ha intenzione di portarsi fino a Parigi, l'ha già specificato, glielo auguriamo, e Rigoberto chiaramente vincitore di tappa tra l'altro abbastanza funambolico perché si è trovato con il cambio bloccato, per cui anche in condizioni abbastanza di disagio ha rifiutato l'assistenza neutrale sperando di contare sulla propria, poi ha deciso di concludere così e ha vinto dimostrando che c'è un run in nuovo, più rispetto a quello che ci aspettavamo in questo Tour de France. Io penso che lui non abbia molto da chiedere alle altissime posizioni della classifica, ma in questo momento si trova in una posizione di classifica che la classica, per stare sempre sulle frasi fatte, ci avrebbe messo la firma prima del Tour de France, per cui cercherà di difenderla, di restare lì e magari di provare a vincere un'altra bella tappa. Insomma, Urán e Barguil sono sicuramente i due vincitori di domenica. Beh, credo che ci sia un altro vincitore, credo, almeno penso io, Froome, no? Sì, Froome è il vincitore non della tappa, ma il vincitore un po' anche morale, in qualche modo, della tappa di domenica, perché si trova adesso senza il suo avversario probabilmente più accreditato, che era Richie Porte, che è caduto, si è ritirato, e che era probabilmente il corridore, l'unico corridore, a parte Froome, che pensava realmente di vincere questo Tour. Era convinto, l'ha attaccato, gli altri sono un po' meno convinti di vincere, hanno voglia, hanno carattere, ma Porte veramente sapeva di poter vincere ed era in una condizione tale da poter vincere, quindi Froome non ha più Porte, ha imposto anche un po' di comando, si è fatto rispettare, ha trovato la collaborazione degli avversari nel momento di difficoltà, di possibile difficoltà, quando doveva rincorrere Bardet, quindi solo cose positive, a parte il ritiro di Thomas, che però qualcuno dice anche quello potrebbe essere un fatto positivo per Froome, perché l'eventuale diatriba interna, dualismo interno tra Froome e Thomas in questo modo è del tutto eliminato. Quindi Froome, altro vincitore, fammi dire qualcosa sugli sconfitti, a parte Porte, sconfitto un po' dal suo errore in discesa, un po' dalla sfortuna che lo perseguita, un po' dall'asfalto, un po' da una serie di cose, Nairo Quintana, grigio, come abbiamo detto ieri nelle nostre borracce, non è naufragato, è lì, però segnali di bellicosità non ne manda, né di brillantezza atletica. Quello che invece un po' più è naufragato domenica è Alberto Contador, che ha perso oltre 4 minuti dai primi e sembra anche lui fuori condizione, anche se su Contador mi viene da dire una cosa un po' più romantica, perché sembra quasi che il dio della bicicletta, come lo chiamerebbe il buon Marco Balestracci, non vuole che noi parliamo di Contador come un corridore finito, che il tempo ha distrutto, perché su Contador c'è anche il discorso da fare delle cadute, cioè Contador è caduto ancora due volte durante quella tappa, quindi davvero non si riesce a dire ma Contador va male solo perché è vecchio e non ce la fa più, o c'è anche questo discorso un po' delle cadute che lo frenano. Il dio della bicicletta vuole che non diciamo troppo che Contador è un corridore finito, diamogli ancora la possibilità di farci dire. Assolutamente, anche perché ricordo, ogni volta che si nomina Contador, da una parte parte una ola, almeno per quello che ci ha dato fino ad oggi. Esatto. Per il suo modo di correre. Beh, ci sono due... Una domanda. A questo punto su questa cosa però, ed è, Contador cade perché è vecchio o no? Ma la prima caduta è perché si è trovato davanti Quintana, cioè non penso che dipenda dalla vecchiaia, cioè Quintana si è spostato, l'ha fatto cadere involontariamente ovviamente, però non mi sembra che abbia a che fare con la vecchiaia. La seconda caduta credo sia stata in discesa e lui si è fatto male al gomito, al ginocchio, non lo so, la dinamica non la conosco, è possibile che sia anche collegata a una minore attenzione, a una minore capacità di concentrazione nei momenti chiave, questo non è da escludere ovviamente. Filippo, vediamo un po', ci sono altri corridori che attendono di capire se essere vincitori o vinti. Ti faccio due nomi, Martin e Bardet. Come li collochiamo? Allora, loro stanno un po' in mezzo, nel senso che Daniel Martin dovrebbe essere un vinto della tappa dell'altro giorno, però in realtà per me è quasi un vincitore, perché in questi contesti, quando la sfiga si accanisce al 100% sul buon Martin, che è un attrattore naturale di sfiga, in genere le sue corse finiscono, invece ce l'ha fatta, è rientrato, lui è caduto una prima volta, non è caduto, quando è caduto Thomas, la bici di Thomas è andata addosso e lui è riuscito a restare in piedi, e già lì si vedeva che c'era quasi una buona stella. Sì. Quando è caduto Porte, che ha fatto quella manovra abbastanza azzardata, la bici di Porte lo ha travolto in pieno, buon Martin assolutamente incolpevole, si è trovato a terra, gli hanno dato un'altra bici, nell'altra bici non funziona, gli ha dato un'altra ruota, e sull'altra ruota non riusciva a frenare, è caduto di nuovo in discesa, e poi ha fatto una discesa rotta di collo ed è arrivato con i primi inseguitori, diciamo, non con i primi, per un corridore come Martin questa è una giornata in cui c'è solo del positivo. Probabilmente avrebbe vinto la tappa se non fosse caduto, però ecco, come dici tu giustamente, dopo un giorno così, essere ancora lì in classifica vicino ai primi è tutto di positivo. E su Bardet invece a me spiace molto, sapete che quando si dice Bardet invece parte una ola da questa parte, perché... Ma anche qui, anche qui. È un corridore per cui ho un debole non certo nascosto, e mi spiace molto, ma devo metterlo tra i vinti, nel senso che lui ha fatto una bella azione, però non gli è riuscita, quindi si può considerare una piccola sconfitta, forse sconfitta è un termine un po' forte, nel senso che Bardet comunque... è stato tra i protagonisti ed è arrivato coi primi ugualmente. Lui ha dichiarato che non voleva attaccare, ma semplicemente si era accorto della difficoltà in discesa e ha voluto solo prendere la discesa davanti. Si è trovato. La cosa mi sembra vagamente plausibile, vagamente no. Dico vagamente plausibile perché Bardet è indubbiamente il miglior discesista del gruppo, per cui è vero che se lui si mette davanti a fare le traiettorie lui stacca gli altri. E poi la sua squadra, una tattica aggressivissima e bella dal mio punto di vista, cioè loro veramente hanno provato a stravolgere, come si dice, a far saltare il banco, sia davanti in fuga che dietro poi nel gruppo dei migliori. Sì, ha una squadra magnifica che si sta muovendo molto bene, speriamo che qualcosa raccolga. L'unica cosa che mi fa un po' temere è che tra le dichiarazioni ha detto già mi sono virtualmente assicurato un posto sul podio, ecco, io spero che l'obiettivo di Bardet non sia un posto sul podio. O meglio, sia un posto sul podio, ma un posto specifico. Speriamo, perché, come dicevamo prima, la tattica, la Jeu Desert sembra in questo momento forse l'unica squadra con le idee abbastanza chiare e aggressive. Diciamo che la tappa di domenica è stata una tappa che ha creato molte discussioni, due episodi in particolare dei quali parleremo tra poco, però una cosa che ha fatto un po' discutere è anche la tattica della Sanna. Sì, allora, non ci siamo dimenticati di menzionare Fabio Aru in questo discorso sulla tappa di domenica, adesso ne parleremo più diffusamente. Due parole sulla tattica della Sanna, che nella fase finale della tappa, quando c'era da inseguire Bardet, ha dato una mano, Fuglsang in particolare ha dato una mano a Froome, tutti gli avversari di Froome hanno dato una mano a Froome nel momento in cui, rarissimo, Froome era senza compagni di squadra, avrebbe dovuto caricarsi in prima persona il compito dell'inseguimento nei confronti di Bardet, e invece tutti gli hanno dato una mano, rispettabile, cioè posso capire il discorso che la Astana preferisce avere due corridori, due co-capitani come li chiamano, nelle prime cinque posizioni della generale, certo è che un'occasione del genere di poter... far lavorare Froome da solo, non so se se ricapiterà, e non so se si sono giocati bene tutti i suoi avversari questa possibilità di chiudere su Bardet per non far guadagnare troppo Bardet e rimanere tutti lì vicini in classifica e poi alla fine far guadagnare i 4 secondi di abbuono a Froome allo sprint. Quindi io personalmente la capisco da un certo punto di vista, ma non la condivido, nel senso che un po' più di agonismo e di cattiveria sportiva nei confronti di Froome ci sarebbe stata bene. Guarda, onestamente anch'io ho qualche perplessità sulla tattica della Astana, non tanto per aver collaborato con Froome a ricucire su Bardet, perché comunque dietro c'erano Martin, Quintana, Contador da staccare, e questo comunque è qualcosa che andava fatto. Piuttosto la mia perplessità è su questa logica della quale stiamo parlando dall'inizio del tour, ovvero di tenere due capitani. Secondo me questa cosa ieri non ha giovato, in alcuni episodi Fuglsang addirittura ha creato qualche impaccio in più, però è una mia perplessità, vediamo, magari hanno ragione vediamo loro. Se svolteranno a loro favore questo discorso di avere due uomini così in forma nelle prime posizioni della classifica generale. Ma... per gli amori di esatto. Filippo, secondo me va chiesto qualcosa sugli ultimi arrivati, e qui si parla anche di una tattica di un'altra squadra, ovvero della FDG. Filippo. Sì, a chiosa sulla Astana direi soltanto che secondo me loro si sono mossi per vincere la tappa l'altro giorno. È una cosa che secondo me non va dimenticata del tutto. La Astana probabilmente sa che Froome è molto molto molto molto molto molto molto favorito per questo Tour de France. Qui sarà difficile vincere la maglia gialla e a quel punto portarsi un po' di tappe a casa non è male. E per cui rientrare, provare a vincere la tappa avendo due corridori nel gruppo che potevano alternarsi scattando era anche una cosa che poteva aver senso. Sono mancate forse un po' di gambe alla fine per finalizzarlo questo lavoro. E la squadra che più di tutte ha fatto discutere, forse più ancora della Astana, è stata la FDG, perché la FDG ha avuto un demar in crisi del chilometro zero, lo hanno aspettato in tre compagni di squadra, si sono fatti una scampagnata di 180 qualcosa, non mi ricordo quanti chilometri fossero, sempre da soli, anzi in compagnia di Renshaw per buona parte, per il resto erano solo loro, e sono arrivati tutti insieme fuori tempo massimo. Ora qualcuno ha detto... forse anche giustamente che questa strategia non è stata molto lungimirante dopo 10 giorni di Tour de France trovarsi la squadra dimezzata. No, forse non a un credo. Certo punto il buon capitano De Mar poteva anche essere lasciato al suo destino e si poteva provare a salvare almeno un Guarnieri o insomma almeno uno degli altri tre si poteva salvare. Non lo so, l'immagine... Io non lo so, ho letto però una cosa che mi ha un po' fatto sorridere di gioia nelle parole che del DS della FDG, che sappiamo benissimo come si chiama, adesso ho un buco nella testa e non me lo ricordo, Marc Madiot, che a fine tappa ha detto quello che hanno fatto è stato costruire insieme qualcosa per il futuro. Beh, questo è molto bello anche. Niente, mi è piaciuto. No, sono d'accordo, a me è piaciuta l'immagine dei compagni di squadra di De Mar che escono fuori tempo massimo insieme a lui. Cioè, un tocco di romanticismo e di poesia in una tappa che ha avuto poco di poetico. Ha avuto una trama più complessa di un episodio di Twin Peaks, per tornare a... Diciamo siamo più vicini a Trono di Spade. Vicini al Trono di Spade. E adesso arriviamo quindi al... Assolutamente, come sapete, fino adesso non l'abbiamo nominato, ma c'è stato un episodio, anzi due episodi, che hanno fatto molto discutere, che vedono protagonisti Haru e Froome, ovvero io mi limiterò a raccontare quello che è successo sulla malsalita del Mont du Chat. Haru è scattato a 6 km se non sbaglio dalla vetta, sì, mentre Froome segnalava un problema tecnico. L'ha visto, non l'ha visto, l'ha fatta apposta, è stato malizioso, ne parleremo dopo. Il secondo episodio è non appena Froome è rientrato nel gruppetto Haru, dove c'erano tutti i migliori, l'abbiamo visto andare incontro a Haru e dargli una specie di spallata, stringerlo, tagliargli la strada, sì, e farlo andare fuori strada. Gli ha chiesto scusa, pare, o immediatamente, gli ha, scusa, gli ha detto qualcosa, ma non sappiamo cosa gli ha detto. All'arrivo, le dichiarazioni su questi due episodi, Haru ha detto: ah, non avevo visto che Froome aveva un problema tecnico, sono talmente concentrato che mi sono lanciato allo scatto perché avevo programmato di scattare lì, poi quando ho saputo che aveva problemi mi sono fermato, quando è sembrato invece che si nervosisse del fatto che nessun altro tirasse una mano. Però ha detto che invece non lo sapeva e appena l'ha saputo si è fermato. Dall'altra parte invece è lo stesso Haru, lo stesso Froome? No, è Haru stesso che invece sull'altro episodio dice: ah no, guardate, Froome non mi ha fatto niente, sì è vero, mi è venuto addosso, ma sicuramente sarà stato un tifoso, gli ha chiesto scusa, niente di che. E Froome invece sui due episodi, soprattutto su quello di Haruka e Scatta, anche lui ha detto: ah, non ho visto niente, ma se lo vedo glielo chiedo, gli porto dei dolcetti. No, i dolcetti forse non li ha detti. Però ecco, il discorso è questo, nel senso che la versione ufficiale è questa, e probabilmente sì, le cose sono andate realmente così, cioè noi effettivamente stiamo parlando di un episodio che abbiamo visto in TV, non sappiamo che si sono detti, quello che è successo realmente. La domanda rimane, dobbiamo crederci, ecco, a questa dichiarazione, è così, non è così? Qua parte una serie di partiranno una serie di elucubrazioni totalmente nostre, una, esatto, lettura dei fatti che facciamo quello che così sta per dire, che quello che stiamo per dire è del tutto personale. Assolutamente, quindi... interpretazioni. La prima domanda, caro Filippo, ci crediamo? È andata esattamente così questa storia? Comunque ci voleva uno stacchetto per questa rubrica, tipo la sigla di forum, qualcosa così. Se lo vuoi, guarda, noi abbiamo mezzi pronti. Chiederemo a Filippo Caus se ci crede. Vai con lo stacchetto. Non è partito. Niente, non era il caso. Meglio, non lo so. Sì e no. Non credo assolutamente al fatto che Haru non abbia visto Froome. È vero che forse Haru ha un po' lo sguardo equino, ma si vede Froome che alza il braccio e Haru che a serpentina lo passa e scatta. Per cui mi sembra veramente improbabile che lui non l'abbia visto. Dopodiché era assolutamente legittima la sua scelta di scattare, un po' meno, cioè ti spiega un po' meno una volta che l'hai fatto questo attacco, perché poco dopo fermarti ad aspettare gli altri e perché poi negarlo nel momento in cui ti viene chiesto. Forse sarebbe stato una prova di maggior carattere dire: sì, ho provato ad attaccare perché voglio vincere il super attacco. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi secondo te il fair play lascia il tempo che trova? Filippo. Sì e no, anche in questo caso, cioè, sai, tante volte il fair play, nel senso, si presta a diversi tipi di lettura, tante volte i problemi in bici non sono problemi ma sono errori, e per cui perché io che non ho problemi devo stare ad aspettare te che hai un problema per colpa tua. E tante volte succede sulle cadute, spesso sono degli errori, e poi si discute di fair play su questa cosa qui, scusate c'è un rumore mostruoso in sottofondo, si discute su questa e poi invece cadono in 13 durante la tappa e nessuno sta ad aspettarli. Non lo so, il fair play è veramente qualcosa che sta nelle scelte poi individuali, e Io l'unica cosa che apprezzo è quando uno le scelte le fa e poi le porta avanti fino in fondo. Sì, sono d'accordo su questo perché secondo me, dal mio punto di vista, Aru ha commesso due errori il giorno del Mondusha. Intanto quello di scattare esattamente nel momento in cui Froome alza il braccio. L'avesse fatto anche solo qualche secondo dopo sarebbe stato tutto più comprensibile e meno discutibile, mentre il timing proprio del suo attacco lascia qualche dubbio. Non è neanche questione troppo di fair play, anche di buon gusto nel momento, nella scelta del momento dell'attacco. Comunque, è legittimo, è possibile farlo, si faceva nel ciclismo nel passato. Uno se lo vuole fare, come ha detto Filippo giustamente, però Aru avrebbe dovuto difendere questa sua scelta nel post-up e dire l'ho fatto perché sono cattivo, perché quando corro non guardo in faccia a nessuno, ho colto la possibilità di poter vincere il tour in quel momento, di poter ribaltare il tour, ci ho provato. Questo episodio si lega però a quello di Froome, perché magari questa dichiarazione è legata anche all'azione di Froome, cioè di mandarlo fuori strada, forse involontariamente, però. Io credo che in qualche modo loro due, minimizzando sui due accaduti, se la siano cavati entrambi e abbiano concluso, si siano lavati le mani in un modo che fa bene a loro due, forse fa bene anche ad abbassare un po' il tono della discussione come si stava sviluppando, ma io concluderei questo discorso riguardo l'evoluzione adesso dei rapporti. In particolare a me interessa il comportamento di Aru, perché subito dopo quell'episodio, quando si è accorto anche che nessuno dei suoi avversari era disponibile ad assecondare il suo attacco, mi è sembrato un po' venir meno a livello di aggressività, ha avuto anche un momento di difficoltà sulla salita, e poi dopo nel finale è stato quasi sempre a ruota. Non vorrei che questo episodio possa un attimo modificare il suo approccio aggressivo e possa pensare, guarda, forse è meglio se mi sto un po' più al posto mio e adesso provo ad arrivare sul podio e il tour lo vinco un altro anno. Sì, effettivamente gli altri gli hanno fatto capire che non era il caso, non era opportuno attaccare Froome in un momento di difficoltà, anche perché comunque Froome non è esattamente un corridore come gli altri, è molto autorevole, è autoritario, ha una squadra molto potente. Non vorrei che quell'altro gesto fosse un atto intimidatorio. No, io non lo considererei un atto intimidatorio, però Froome nel 2015, se non vado errato, con Nibali anche aveva avuto un atteggiamento di questo tipo. Nel post-tappa era andato sull'autobus dell'Astana per chiarire faccia a faccia con Nibali un episodio in cui Nibali gli aveva, credo, lanciato una borraccia, considerandolo il responsabile di una caduta, se non ricordo male. Froome ha di queste uscite. Scusami, nello stesso tour Nibali attaccò esattamente come Aru quando si accorse di un problema tecnico di Froome, attaccò e se ne andò e vinse una tappa splendida alla Tussuir senza paura di farlo davanti al buon Chris Froome in maglia gialla. È vero, ci voglia forse un po' più di coerenza anche in certe, dopo aver preso certe decisioni, mantenerle. Ma guarda, non lo so, perché comunque poi quell'atto è stato seguito da tutta la tappa, dove secondo me è venuto poi alla fine fuori un teatrino dove ognuno si rimangia quello che ha fatto, e anche l'azione di collaborare di Fuglsang e Aru a ricucire su Bardet forse è la conclusione formale di questo evento, dove probabilmente dal mio punto di vista ognuno ha fatto esattamente quello che ha fatto, se la sono lanciata e se la sono giurata, poi hanno fatto una sceneggiata finale di dichiarazioni, però hanno abbassato i toni e va bene, quindi non so, il ritrattare di Aru forse va inserito in questo nuovo atteggiamento dove questo più manto conciliante, sì, questo manto di finzione conciliante ha un luogo di esistere che però magari ha senso, no? E magari sì, questo mantenere i rapporti civici può servire a tutti in questo tour. Assolutamente, è un argomento molto dibattuto. E poi c'è da dire che Aru ha detto questa sua grande frase di passione per i colori biancorossi della maglia Pois, sì, in cui tutti abbiamo pensato alla maglia, alla bandiera della Sardegna, ma in realtà anche lo scudo della Democrazia Cristiana era biancorosso. Tu dici che non si riferisse alla Sardegna. Potrebbe essere semplicemente un tour democristiano, quello a cui siamo assistiti. Chissà, domenica non è sembrato, almeno fino alla fine, però è una questione che fa molto discutere, vediamo che molti commenti che state lasciando sono in relazione a tutto questo, all'atteggiamento dell'Astana, all'atteggiamento di Froome e di Aru. Vi ringraziamo, continuate a commentare e tra poco torneremo a parlare anche di voi e del vostro apporto alla nostra trasmissione. Continuiamo a parlare anzi di Fabio Aru. Chiudiamo perché noi questa abbiamo parentesi con Elio. Elio Turnartemalle, perché ci ha inviato una sua riflessione sulla vendetta. Vedrete nelle parole di Artemalle c'è una piccola riflessione su che cos'è la vendetta, che aleggia su questi protagonisti, poi scegliete voi con quali ruoli, e ci racconta di un modo di dire barbaricino Milano, laddove la vendetta è protagonista e forse è una chiave di lettura delle prossime tappe dove Froome e Aru si incontreranno. Lasciamo la parola ad Artemalle con Il Sardo in Sardo. Subire un torto genera immancabilmente una reazione da parte della vittima, che reagendo tende spesso a rendere la pariglia con un sovrapprezzo, non pareggiando quindi i conti, ma creando una nuova situazione di iniquità. Si innescano così fitte trame di azioni e reazioni, climi da eterne vendette da perfezionare, e imperfettibili per loro stessa natura, visto che ogni effetto muta rapidamente in nuova causa. Nonostante la legge nei millenni abbia cercato di regolare le infinite liti degli uomini, delegando agli stati il ruolo di vendicatore, permane in ciascuno l'assopita certezza che vendicarsi da sé sia la soluzione migliore. Perché? Perché dà soddisfazione, evidentemente. Risarcisce il male subito col piacere provato a infliggere personalmente una sofferenza all'avversario. Se la reazione non è istintiva, se è meditata, progettata, può diventare qualcosa in più di un atto di rappresaglia, può essere accurata, sottile, quasi un'opera d'arte. E allora diventa importante trovare il momento giusto per farla deflagrare e nel frattempo fingere indifferenza, rispetto, addirittura pubblica stima verso chi si intende colpire. Sono tanti i modi di dire che descrivono situazioni di questo tipo, per esempio sedere sulla sponda del fiume e aspettare il cadavere del nemico, oppure la vendetta è un piatto che si gusta freddo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è però un modo di dire barbaricino, fulminante nella sua laconicità. Dice, montene sodiu chi s'occasione non mancata. Cioè, trattieni l'odio, non mancherà occasione. Penso che ogni commento sia superfluo. Ogni commento è superfluo, ne facciamo soltanto uno, nel senso che auspichiamo che questo odio da trattenere e tirar fuori nei momenti opportuni ovviamente sia odio sportivo, purissimo odio sportivo che a noi piace. Assolutamente, se le danno di santa ragione Aru e Froome ce ne guadagniamo tutti, e anche Bardet un pochino se le può dare, visto che qua in questa redazione c'è un amore smisurato per Bardet. È il migliore di tutti, poi faremo un giorno una rubrica solo su di lui che ha delle cose bellissime già pronte. Ok, non vediamo l'ora, ma passiamo invece alla nostra rubrica dove cerchiamo di scovare nei social network come i corridori hanno vissuto queste esperienze in questi giorni. Partiamo con 5T dalla corsa. Chi ha la possibilità di vedere il video si accorgerà che adesso in sovraimpressione è comparsa una maglia lacerata. È la maglia di Geraint Thomas che è caduto domenica e che molto simpaticamente su Instagram la mette in vendita. Sì, sì, sì. Maglietta in vendita, vestita solo, usata solo una volta, non al massimo della condizione. Ci sono alcuni segni di usura, dice Thomas. Potrebbe essere necessario lavarla. Geraint Thomas è sempre il migliore. Sì, è riuscito a essere simpatico anche in questa situazione. Se la mettesse in vendita, secondo me andrebbe anche via per qualche migliaio di euro questa maglia. Lo poi ringrazio ovviamente i suoi tifosi per i messaggi e per la vicinanza, poverino. Un'altra persona che è caduta e che è protagonista dell'altro cinguettio è il nostro Richie Port, che ci manda sempre su Instagram un'immagine del suo pranzo, anzi della sua colazione dall'ospedale. Sì, sì, sì, è forte, finito in ospedale, e insieme a lui in ospedale sono finite un po' di speranze che questo tour, che l'entropia di questo tour aumentasse. Ho soltanto un'osservazione, per chi di voi può vedere l'immagine, noterà che Richie Port beve del tè, ma non si capisce perché lo beve in una boccia per pesci rossi. Si capisce che poi tipo senza di tazza. Acqua, credo, è soltanto la bustina. No, mi sembra che l'acqua ci sia, però è in una boccia trasparente. Vabbè, Richie Port in Tasmania, poverino, si berrà così. Un abbraccio a Richie Port. Assolutamente. Infine, magari come l'esame delle urine. Spero di no. Cosa hanno fatto poi i nostri corridori durante il giorno di la grande riposo? Curiosità, cosa si fa nel giorno di riposo? Jack Bauer della Quickstep suona la chitarra elettrica. Ovviamente per chi di voi ha Instagram può andare, può farselo amico e andare a ascoltare proprio quello sì, che suona il nostro Jack Bauer. Poi abbiamo anche altri modi di intrattenersi durante il giorno di riposo, ovvero il più amato dai francesi, Nanserre Boigny, si è andato a tagliare i capelli. Questa è una cosa tipica dal giorno di riposo. Ti piace il nuovo taglio di capelli di Boigny, Angelo? Onestamente non mi ricordo com'era quello vecchio, però mi piace molto e consiglio a tutti quanti di vedere questa fotografia, perché il barbiere evidentemente ha dei baffoni veramente notevoli. E questi baffoni. Il barbiere di Boigny. Assolutamente. E infine l'ultimo tweet. Questo è bellissimo. Ormai il più amato veramente, almeno dalla nostra redazione, il gorilla, ovvero Greipel, che in questa foto su Instagram si sta riposando, forse in vista di oggi, col dito in bocca. Grandissimo Greipel, dice che il giorno di riposo è meritato, era necessario, ed ecco questa bella foto. E ringraziamo Greipel che ci dà sempre del materiale per parlare di lui in questo modo. Ringraziamo Filippo Pelacci che per noi scandaglia il web alla ricerca di immagini e tweet. Ma ringraziando c'è soltanto un'entità che noi dobbiamo ringraziare, ovvero lo sponsor. Adesso noi ci mettiamo in ginocchio perché torna lo spot degli orologi. Sì, gli orologi sbagliati in oro del tour ci ha inviato il nuovo spot che noi in religioso silenzio. Il nuovo? Cos'è? Sì, è nuovo spot della nipote. Me lo ascolto. E ascoltiamo lo spot di Bonjour Bidon. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku? Dai nonno, raccontamela! E va bene! Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola, nonno, l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Viva il nonno, ma viva il nonno che faccia qualcosa contro questa nipote che vuole assolutamente sentire la storia degli orologi sbagliati. Ma invece scusa, il volume sulla fonduta in omaggio, ma perché la fonduta? Sì, perché d'estate, comunque poi. Assolutamente la fonduta è un piatto estremamente estivo, se lo decide il nostro sponsor. E il nostro sponsor comanda tutto, quindi. A proposito degli orologi, anche se sbagliati, orologi molto avanti, perché oggi siamo stati lunghissimi, giustamente, sulla prima parte, quindi a piezo spinto andiamo a parlare della tappa di oggi. Sì, il nostro ottimo Pietro Pisaneschi ci fa il resoconto di quello che potrebbe succedere oggi con la sua consueta rubrica. La tappa che verrà si chiama. Forse ho patito anch'io il giorno di riposo. Mi sa di sì un po', eh. Dove hai mangiato ieri? Che ristorante? Non lo dico, però è famoso, lo conosce tutta Italia, secondo me. Vabbè, va bene. Andiamo avanti, vai Pietro, salvaci. La tappa di oggi, decima. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della decima tappa di questo Tour de France 2017 da Périgueux a Bergerac per 178 km. Dopo il giorno di riposo la Grand Boucle riparte con una tappa che potremmo dire di trasferimento visto il chilometraggio esiguo e ampiamente pianeggiante. I 178 km odierni si sviluppano interamente nella Dordogne e dopo l'uomo di Neanderthal l'omaggio alla preistoria offerto dal Tour prosegue facendo partire il gruppo nei pressi della grotta di Lascaux. La frazione è sostanzialmente pianeggiante con due leggere salitelle di quarta categoria che hanno la sola funzione di regalare una manciata di punti in chiave maglia pois e qualche euro a chi vi transiterà per primo. Dopo 100 km il gruppo incontrerà la Côte de Dôme, 3 km e mezzo al 3.3%. 38 km dopo è la volta della Côte du Buisson de Coudon, poco più di 2 km al 5.5%. Dalla vetta si fa per dire 40 km di pianura fino al traguardo di Bergerac, città famosa per il Cyrano e per il pazzo o presunto tale protagonista di un'inchiesta del commissario Maigret, costretto in quel caso a rimanere a letto per l'influenza, ma comunque in grado di smascherare l'assassino di turno. Chi sarà invece ad uccidere quest'oggi la tappa? Sicuramente sarà un velocista e gli indizi portano ad un quartetto di sospettati, di cui l'indiziato principale è Marcel Kittel, serial killer in volata fino a questo momento, seguito da Matthews, Christoph e Greipel. L'appuntamento è a domani con la presentazione dell'undicesima tappa. Vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir. Abbiamo capito cos'è che fa Pietro Pisaneschi di notte. Io l'altra volta ero stato un po' dubbioso. Lui studia perché è preparatissimo e ci racconta in questi resoconti anche curiosità e aneddoti sui luoghi, oltre a presentarci la tappa per bene. E quindi oggi questa sfida in volata, Filippo, c'è possibilità di una fuga? Valerio Bianco nei commenti su Facebook ci ha scritto che l'assenza di Sagan, Cavendish e DeMar, unite allo strapotere di Kittel, potrebbero favorire oggi un gruppetto di fuggitivi. Ci credi? Ma visto che l'ha detto Valerio, che saluto, secondo me invece oggi non arriva la fuga. E lo dico con una frase fatta, mentre passa un camion che farà ancora più casino. Non l'abbiamo sentito il camion, stai tranquillo. Non l'avete sentito, no. Lo dico con una frase fatta, ovvero che non c'è cosa che piaccia di più ai corridori di un giorno di riposo che due giorni di riposo. Io penso che oggi il gruppo si prenderà una bella giornata di relax, magari questo invoglia i fuggitivi, ma non lo so, io non vedo alternative alla volata. Il nome per la volata? Uno secco. Il nome sarebbe inevitabilmente Kittel, anche se ha perso un uomo molto importante, Kittel, che è Matteo Trentin, che è arrivato fuori tempo massimo l'altro giorno e potrebbe avere un effetto deleterio, però dico Kittel, tipo Greipel e dico Kittel. Beh, secondo me oggi hai veramente la possibilità di beccarti il pane Carasau in omaggio, perché Kittel è giocare proprio facile. Invece io ci riprovo e dico che tifo Greipel e pronostico Greipel oggi. Va bene, chissà, qualcuno ci chiede se è una tappa di salite, abbiamo già risposto, evidentemente no. C'è qualche strappettino, c'è, però non aspettiamoci nulla di sconvolgente, nonostante il giorno di riposo potrebbe provocare qualcosa, oggi non provocherà nulla. Assolutamente, salutiamo il nostro Filippo, grazie Filippo, grazie del tuo intervento prezioso. Ciao, come sempre. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Volevo fare anche i complimenti a Pietro Pisaneschi, che sta portando sempre più in là il concetto di ottimo, ormai è in forma sempre più smagliante. Superlativo assoluto, ciao Filippo, a domani. Ciao. Comunque, come ricorderete, oggi si arriva a Bergerac, famosa per il famoso testo, certo, il Cyrano, che è già stato citato da Pietro, ma come alcuni di voi sapranno, Bergerac è un luogo di piantagioni di tabacco. Ah sì? E proprio lì è andata la nostra inviata speciale. Guarda, me ne ero quasi scordato che c'era anche lei oggi. Fai male, perché la cosa più bella di questa trasmissione, Fiammetta Ruiu, è stata a Bergerac nel tabacco, tra il trabacco, nel tabacco, sì, e ci ha portato, come di consueto, i suoi ottimi resoconti ocra. Campi di tabacco, ettari di campi di tabacco. Il tabacco si succede al tabacco, e sopra il tabacco il cielo, e sotto il tabacco la terra. Questa storia non inizia dove il cielo e la terra si incontrano, perché il tabacco sta sempre in mezzo. Il cielo e la terra vorrebbero incontrarsi, ma il tabacco non si sposta. No. In questo luogo di invadenza del tabacco, lì inizia la nostra storia. François osserva il tabacco François. E il suo cuore gli dice: François, smetti di coltivare il tabacco empirico e verde, lanciati in una nuova impresa. Bravo. Così François va alla ricerca di qualcosa di nobile da fare, qualcosa di glorioso, qualcosa di leggendario. Bravo. Leggendario. Forza François, abbandona il lavoro, cerca la tua impresa, lanciati a braccia aperte verso i tuoi sogni. Sì, ma cosa vuole fare? Ma la sorte non concede possibilità a chi non sa neanche come si scrive la parola sorte. Maledetta. Purtroppo l'insoddisfazione di François non trova alcuno sbocco. Come? Non ha la più pallida idea di quale impresa fare. No, non lo sa proprio. Ora François fa esattamente quello che faceva prima, ma con molta più malinconia. Ci credo, poverino. E mentre una lacrima indugia sul suo viso, un airone si manifesta nel cielo. Si manifesta. Attonito. Bellissimo. Ma non ha senso, ma non c'è una trama. Cioè, lui vuole realizzare un'impresa, ma non sa che impresa fare. Ma vedi come ti devo spiegare proprio tutto. Questo probabilmente è il resoconto ocra più bello di tutti, perché questo è il resoconto ocra del Novecento. È l'uomo di fronte all'incapacità dell'azione. Bellissimo. Ah, tu dici così. François. Ma poi François si chiama. Sì, François ma è perfetto. Questo è già Joyce, capito? Vedi, già Joyce in questo. François siamo noi. Siamo noi gli aironi attoniti che non sappiamo che diamine dobbiamo fare. Purtroppo la sorte non ci aiuta. Brava. Con tutto il tuo cuore, ma non mi convinci. Perché tu hai un cuore duro. Hai un cuore veramente che non è in grado di capire la poesia e la bellezza. Questo meta resoconto oggi mi ha veramente spiazzato. E non in positivo. Comunque noi andiamo a larghe tese verso la conclusione. No, salutiamo alcuni dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Per esempio c'è Margherita che, tornando sul discorso di Aru e Frum, dice che mentono entrambi e fanno gli ignorri davanti al pubblico, ma da ignorante e profana Aru ha fatto bene ad approfittare della situazione. Questa è l'opinione di Margherita. È vicino un po' alla mia. Cosa doveva fare? Aspettare che per telegramma Frum gli faccia sapere quando può scattare. Andiamo avanti. E invece Antonio Loi ci dice che a lui una colazione così in ospedale non gliel'hanno mai data, come quella di Port, credo. Spero che tu non avessi la boccia dei pesci rossi. E Pie Ballo ci dice Buoni, e in effetti Buoni con il nuovo taglio di capelli anche lui oggi potrebbe essere tra i candidati per la vittoria. Pietro non l'ha menzionato, lo menzioniamo noi ora. Pietro Naldesi, Greipel è uno che viene fuori con i giorni, quindi oggi Greipel. Quindi punti anche tu, caro Piero, su Greipel come Leonardo, quindi anche Piero, se vinci, certo. Potrai venire a ritirarti anche tu il pane Guttiau a casa nostra. Siamo a Cagliari, ricordatelo. E ultimo, Vincenzo Mascia dice Frum ha il tour in tasca già, solo Aru può impensierirlo, il resto è già out alla prima settimana. Noi crediamo che non sia così, altrimenti ce ne andremmo direttamente al Poetto, e invece siamo qui a raccontarvi ogni giorno. E oggi fa veramente caldo, ve lo dico, stiamo sudando, anche perché siamo arrivati praticamente all'ora di trasmissione in diretta. Sì. C'erano molti argomenti, 45 però. Minuti, ma ne valeva la pena, è successo di tutto. Assolutamente. Comunque di questi argomenti che vediamo prendono molto gli animi di tutti, perché effettivamente sono il bello del ciclismo, poter discutere, poter interpretare le cose, poter vedere qual è l'atteggiamento dei nostri corridori e in realtà al di là delle forze è bello anche come impiegare queste forze, cioè il pensiero, i valori che sottendono. No, per questo è normale. Ma sai cosa, Angelo? Alla fine parlare di questi argomenti, cosa avresti fatto tu in quella situazione, ci mette in gioco anche noi stessi, perché ci fa passare dalla parte dei protagonisti e dire ma io in questa situazione sarei stato più o meno corretto, più o meno sportivo. E tu saresti stato corretto? Io tendenzialmente penso di sì. Però una parte di me avrebbe voluto essere cattiva e fare quello che ha fatto Aru e portarlo fino in fondo. Però mi rendo conto che poi praticamente se mi avessero messo lì sul Mondusha forse sarei stato più democristiano di Aru. Va bene, comunque pensate, ognuno di voi ci rifletta cosa avreste fatto. Noi per oggi abbiamo concluso, vi diamo appuntamento domani, speriamo, diciamo orientativamente alle 11, visto che non riusciamo più a essere alle puntuali. 11. E adesso noi andiamo a vedere la tappa, o forse andiamo a vedere Spider-Man, non abbiamo ancora deciso. Ah, perché esce oggi? Credo che sia già uscito. Ah, beh, allora dobbiamo correre a vedere Spider-Man o incrociare le due cose, un po' Spider-Man, un po' la tappa, al cinema col cellulare. Comunque, detto questo, vi salutiamo di consueto con la frase che vi farà venire la pelle d'ocra, ovvero state col ciclismo che... Che il ciclismo ci fa discutere, va bene, no? Mamma mia, ci fa parlare del senso della vita, no? Diciamo, retorica, più retorica di così. Diciamo che Leonardo Piccione oggi ci dà il vero senso di cosa significa, chiudere, diciamo, in discesa. Arrivederci. Ciao. No, che cosa? Parte anche la stanchezza. Di nuovo a Fiammetta Ruiu, non sei tu la conclusione. La conclusione il è il nostro Dino Zandegu. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Obisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobin.